Professore, lei è laureata in fisica e docente di acustica, ha dedicato una vita al rumore e scrive un saggio sul silenzio. Ho letto su Repubblica che una sua collega l'ha paragonata ad un pasticcere che vende prodotti dietetici. La cosa mi ha divertito molto. Sì, in effetti il paragone forse calza, in quanto mi dedico agli aspetti acustici di insonorizzazione. Se poi andiamo a verificare sui testi della letteratura acustica, la parola silenzio non la troviamo. Troviamo al posto silenziatore, ma non silenzio. Silenziatore in quanto attenuatore. Il silenzio è qualcosa che forse non ci appartiene più. Lo ricerchiamo per riposare il corpo, la mente, per riposare le orecchie che sono frastornate dai rumori continui della civiltà tecnologica. Certamente il rumore non appartiene solo ad un aspetto, quello della vita urbana, ma è contemplato nella quotidianità, nell'uso degli strumenti che abbiamo a disposizione, degli utili strumenti che abbiamo a disposizione. Professore, il problema è che forse il rumore non lo sentiamo più, non lo avvertiamo più, sì, come rumore. È vero anche questo, cioè il rumore è qualcosa che diventa un elemento mascherante, diventa un fondo che appunto ci accompagna nel quotidiano. Per esempio, in ambiente cittadino è caratterizzato dal rumore delle sorgenti veicolari, le automobili, il traffico. Se venisse analizzato attraverso la strumentazione acustica, scopriremmo che ci sono dei livelli sonori particolarmente elevati. Quanto elevati, professore? In ambiente cittadino consideriamo sicuramente valori intorno dai 60 agli 80 decibel, che chiaramente lontani dall'idea di quiete che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ci offre, cioè quello per esempio del riposo intorno ai 30 decibel. Quindi non parliamo in fondo di un silenzio. Il silenzio è caratterizzato da un'idea di vuoto. Normalmente il silenzio fa paura perché si associa alla solitudine. Il silenzio fisico è irrealizzabile, forse lo possiamo constatare in ambienti speciali. A proposito di questi ambienti, nel mio libro ho dedicato alcune pagine, cioè sono ambienti tecnici, le cosiddette camere anecoiche, che sono addirittura invivibili, perché non rappresentano sicuramente quello che noi abbiamo in testa del rumore quotidiano. In fondo c'è da dire che una parte del rumore è informazione, informazione perché ci avverte, ci allerta. Però, proprio come diceva lei, se il rumore ci accompagna come mascheramento di fondo, non percepiamo più la parola, la relazione con l'altro. E questo è un po' il rischio che lei denuncia anche nel corso del suo libro. Ma, professore, per avere il desiderio e la forza di recuperare il silenzio, è un'operazione abbastanza faticosa, è necessario prima capire che cosa si intende per silenzio. Lei ce ne ha parlato, e soprattutto capire quanto il silenzio ci sia utile. Sì, il silenzio nel mio testo l'ho declinato in diversi modi, in diverse interpretazioni, perché non esiste un unico silenzio. Per esempio possiamo parlare di silenzio esteriore, quello che è caratterizzato appunto da una valutazione, diciamo, fisica dell'evento: quanti decibel, quanto rumore, quanto superamento. E poi da un silenzio interiore che non necessariamente utilizza il silenzio esteriore, può diventare una ricerca personale, certamente ha bisogno di esercizio, di fisico, una specie di esercizio spirituale. Nello stesso tempo è una separazione dal mondo, è un po' come anticamente poteva essere il silenzio del padre del deserto che si ritirava in vita solitaria, soprattutto per un'idea forse assurda, quello dell'ascoltare la parola di Dio, una voce che diventa sempre più silenziosa col passare del tempo. Professore, per scrivere questo libro anche lei ha cercato il silenzio e l'ha trovato in un monastero. Beh, il silenzio in realtà lo trovo in diverse occasioni. Il monastero è il luogo storico per eccellenza dove si ritrovano le regole antiche. Tra le regole antiche anche quella del silenzio, cioè rispettato in certi momenti della giornata, anzi in maggior parte dei momenti della giornata. E quindi questa possibilità permette una concentrazione maggiore, forse, permette di ascoltare le parole interne, permette di ascoltare le musiche passate, le memorie, attraverso quindi un'indagine sonora, personale, e quindi ha bisogno necessariamente di una calma anche esteriore, almeno dal mio punto di vista. Tra l'altro è dimostrato scientificamente che in luoghi così particolari gli stati fisiologici del corpo umano si adeguano, si riducono i battiti cardiaci, la respirazione diventa un po' più regolare e da allora si sta meglio. Professore, dal monastero alla metropoli, consigli per recuperare il silenzio, consigli rivolti a uomini metropolitani? Possono essere diversi da quelli fisici, ma diventano sempre più difficili. Quelli di ridurre le incursioni del rumore sul proprio corpo, cominciando dall'uso parsimonioso delle sorgenti sonore in cuffia, gli auricolari, ridurre il rumore o ridurre il silenzio e il suono con un volume adeguato. Se si ascolta musica, capire se quella musica deve essere ascoltata per forza a quel volume e non perché dobbiamo coprire il rumore del mondo che ci dà fastidio. Oppure quella dello scoprire i luoghi di una città sempre più insidiosa, che sono i luoghi tranquilli di piccole strade, di viali secondari, magari attraverso la lenta camminata e non l'utilizzo di luoghi pubblici pieni di gente o comunque di rinchiudersi all'interno di un'auto privata, magari ascoltando volumi ad alto livello. Quindi un elogio della lentezza, in fondo, della camminata. Grazie, professor Cingolani, per essere stato con noi. Ricordo il titolo del suo libro, Per una storia del silenzio, Mursi Editore. Buona giornata. Grazie.